Leggero tu vai, non senti quella voce, dice dove vai, vai, affilatissimo stile tu hai, con lama a doppio taglio credi che ce la farai, vai, ce la farai. Solo nasconderti non vuoi, sapati ora mai è tardi. Sei in agguato, la preda tu è lì, ma tu ti dai le spalle e credi che ce la farai. Sei, ce la farai. Ma adesso la preda sei tu, sei tu. Credevi di cacciare, ma adesso la preda sei tu. Sì, sei tu. Credevi di cacciare, ma adesso la preda sei tu. Devi cacciare ma...